Wender e Fabio Alisei presentano. Questo è Polaroid, istantanee di storia della musica. Per il crononauta il tempo è una strada, un groviglio di direzioni che si intersecano, di dimensioni che si fondono in un trasparente origami. Altezza, larghezza, profondità, a velocità, curvatura. Abbiamo viaggiato in avanti e all'indietro, dal prossimo al remoto. Ora è tempo di scendere nel profondo, alla sorgente della musica, al suo DNA. Avviare processo di miniaturizzazione. Iniettare. Go. Canzone è un gene X, composto di piccole particelle contigue, linee, groove, strumenti, suoni. Individuarle, scomporle e riassemblarle è la nostra missione odierna, alla scoperta di minuscoli mattoncini chiamati sample. L'unità indivisibile di ogni creazione che, estratta dal contesto, nelle mani di un DJ, può diventare quello che vuole. Anno dopo anno, traccia dopo traccia, campione dopo campione, in una raffica di scatti col flash. Mettetevi comodi. Inizia Polaroid. Istantanee di storia della musica. '1987, l'anno dell'intuizione. Quello scantinato dell'East London non è esattamente un laboratorio e Martin, Alex Aiuli, Rudy, Russell e Steve non sono esattamente degli scienziati, eppure stanno compiendo un esperimento epocale. Fondere insieme cromosomi estratti da canzoni diverse. La ritmica di Kool & The Gang, la voce di James Brown, watch me! Watch me! L'energia di Trouble Funk, gli scratch di B-Side, e quella volta in cui Eric B e Rakim dicono alza il volume. From the microphone solo with, so you sit by the radio and on the dial soon as you hear it, pump up the volume. E inventano la house. Pump up the volume, pump up the volume, pump up the volume, dance. On the record when the drum beats go like this. Pump up the volume, pump up the volume, pump up the volume, dance, dance. This is a journey into sound. Questo è Polaroid, istantanee di storia della musica. Focus puntato sui sample. Su Radio 105. This is a journey into sound. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value. Ready? I throw this switch. Pump up the volume, pump up the volume. Pump that bass.

Chi dice che non esistono i miracoli è privo di fede o non ha mai compreso l'edificazione di Harder, Better, Faster, Stronger dei Daft Punk. Work it, make it, do it, makes us harder, better, faster, stronger, more than power, power, never, ever, after, work is over. Work it, make it, do it, makes us harder, better, faster, stronger. Di storia della musica. La traccia che state sentendo è di Steve Winwood. Ascoltatela bene su Radio 105. Some stuff. Squad, istantanee di storia della musica. I groove del passato sono un archivio di idee e suggestioni da cui trarre ispirazioni ed impulsi. Ma non di rado qualcuno passa col carrello della spesa per farli propri. Come Eric Prydz, che passa alla cassa questo campione di Steve Winwood del 1982, Valerie, e lo trasforma nel milione di copie di Call on Me. Ferma e torna tra poco, solo su Radio 105. Questo è Polaroid. Istantanee di storia della musica. Oggi parliamo dei sample. 1982. Michael è un giovane solitario in una crociata per difendere la causa degli innocenti, degli indifesi e degli impotenti in un mondo di criminali che operano al di sopra della legge. Guida una Pontiac Firebird Trans AM nera dotata di intelligenza artificiale, la Knight Industries 2000. Kit per gli amici, per tutti supercar. Anni dopo, a Londra, nel regno di Kerry e Bangra, Mimi ha ਪਤਲਾ ਜਲਕ ਨਾ ਹੁਨਾਰਾ ਵੀ ਸਹਾਰਦਾ Ovunque voi siate, fermatevi. Concentratevi bene sul prossimo brano, estratto dal vinile di Danny Jagger, intitolato The Incredible Sound of Synclavier 2 del 1981. Prestate attenzione, perché questo è uno dei furti più celebri della storia del pop. Lo scippatore si chiama Michael Jackson e il singolo non ha bisogno di presentazioni. Si riconosce dalle prime note e comincia così. 1975, negli stadium degli Stati Uniti d'America si snoda la tournée dei Fleetwood Mac. 20 stati, 20 date, tutte sold out. Solo che quelli sul palco non sono i Fleetwood Mac. Il batterista non è Mick Fleetwood, il chitarrista non è Peter Green. Solo il manager è il vero manager e ha truffato gli organizzatori americani spacciando per Fleetwood Mac una loro band di spalla, un gruppettino di capelloni chiamato Stretch. Nessuno ricorderebbe mai questa storia. I've been thinking about what you have done to me. I've been thinking about what you have done to me. Se nel 1999 un DJ italiano non avesse preso in prestito gli Stretch e cominciato a menare cassa con questa. Istantanee di storia della musica. Porzioni, ingranaggi, dinamiche, frazioni di successi del passato che hanno costruito un nuovo sound. Oggi in Polaroid, obiettivo puntato sui sample. 1977. A Filadelfia ci sono quattro sorelle, come le piccole donne del romanzo, ma più nere, più grintose e con una pista da ballo sotto i piedi al posto di una pallosa prateria del New England. Insieme compongono una famiglia e cantano la storia del più grande ballerino del mondo. Venti anni dopo, quella storia arriva in California. Sulle sponde del Pacifico, fra palme e piscine, se ne appropria un giovane sovrano, il principe di Bel-Air. Set, let's go. Dance floor, bro. I know, you know. I go psycho when my new joint hit. Just can't sit. Gotta get jiggy with it. That's it. Now, honey, honey, come ride. DKNY, all up in my eyes. You got a Prada bag with a lot of stuff in it. Give it to your friend, let's spin. Everybody looking at me, glancing a kid. Wishing they was dancing a jig here with this handsome kid. Sick a cigar right from Cuba, Cuba. Just bite it. It's for the look, I don't light it. Ill way to AMA on the hand, stay off play. Give it up, jiggy, make it feel like foreplay. Yo, my cardio is infinite. Big Willie style's all in it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. What? You on the ball with your kid? Watch your step, you might fall trying to do what I did. Mama, come close side in the middle of the club with the rubber dub. No love for the haters mad cause I got floor seats at the Lakers. See me on the 50-yard line with the Raiders. Met Ali, he told me I'm the greatest. I got the fever for the flavor of a crowd pleaser. DJ play another from the prison, it's your highness. Only bad chicks riding my whip. South to the west, to the east, to the north. Bump my hips and watch them go off, or go off. But yes, yes, y'all, and you don't stop in the winter order. I mix it high, getting jiggy with them. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. 850 IS, if you need a lift. Who's the kid in the drop? Who else will slip? Living that life, some consider a myth. Rock from South Street to 125th. Women used to tease me, give it to me now, nice and easy. Since I moved up like Georgia Wheezy, cream to the maximum, I'll be asking them. Would you like to bounce with your brother that's platinum? Never see Will attacking them. Rather play ball with Shaq and them. Flatten them, like getting. Thought I took a spell, but I didn't. Trust the lady of my life, she hitting. Hit her with a drop top with the ribbon. Crib for my mom on the outskirts of Philly. You trying to flex on me? Don't be silly. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Polaroid. Polaroid. Istantanee di storia della musica. Si ferma e torna tra poco, solo su Radio 105. Questo è Polaroid. Istantanee di storia della musica. Oggi parliamo dei sample. 1979. Cossy Gardner ha 30 anni e suona l'organo in chiesa. Certo, quelli con la chitarra elettrica scopano di più, pensa Cossy. Ma lui piace Bach, gli piace la penombra, la luce che penetra dalle vetrate colorate, il riverbero naturale delle volte a botte. Non è fatto per gli studios, i club, i concerti. Solo che la sua amica Carrie Lucas ha proprio bisogno di lui. In fondo deve solo suonare un paio di volte quella canzonetta dance da capelloni e poi può tornare al suo Bach. E Carrie si incontreranno di nuovo, 20 anni dopo, sul solco che gira di questo vinile. you haven't walked in my shoes. 1973. Eleuterio Sánchez è il criminale più ricercato di Spagna. Evaso già 5 volte da un carcere di massima sicurezza, è il nemico numero uno dell'Interpol. Sulla sua testa pesa un'accusa di omicidio. Ma tutti sanno che lui, Elute, è innocente e fanno il tifo per lui. Scrivono storie su di lui. Perfino canzoni su di lui, come questa di Bonnie M. Nel 2014 Elute è ancora vivo. Ha divorziato 3 volte e fa lo scrittore. Il suo nome è scomparso dalla storia, sostituito da quello di Barbara Streisand. Barbara Streisand. Barbara Streisand. Streisand. Questa era l'ultima istantanea. Possiamo tornare alla nostra dimensione reale e slacciare le cinture, riprendere fiato per un po' e ricominciare a cercare per un'altra settimana. Al prossimo scatto di Polaroid. Barbara Streisand. Polaroid, istantanee di storia della musica, torna sabato prossimo. Sabato prossimo alle 19 su Radio 105. Polaroid è una produzione Zodi 105. Ideato da Wender e Fabio Lisei. Voce Lucilla.